Zolt. Fulminati in azienda. Capo, posso entrare? La disturbo? Paco, mi stai proprio a disturbare. Comunque, entra, dai. La disturbo perché Govu, secondo me, è una bella idea. Sì. Perché nella nostra azienda non inventiamo un centro wellness per tutti i dipendenti, compresi gli stagisti come me. Ma che è sto well? Attrezzi di ginnastica, sauna, la piscina, il centro massaggi. Paco, qua non siamo mica le terme, qua si fa business. Ma adesso, capito? Capo, tutte le migliori aziende del mondo cura il benessere dei dipendenti e anche degli stagisti, perché men sana, in corpo è sano. Paco, se vuoi andare in palestra, te la paghi tu, famo così. E poi quest'anno con l'austerio non ci danno neanche i buoni pasto, non c'è neanche energia per piangere, figurati se ce l'ho per fare il tapirulante. Ma vabbè, era solo un'idea, comunque se la vol è il progetto se pronto. Paco, ricordate che sei pagato per lavorare e non per pensare. Veramente sono stagista di 10 anni e non sono pagato per niente comunque. Senti, ho letto sulla rivista di Manager di recente un articolo sugli addominali scolpiti come ultima frontiera della leadership. Secondo me dovremmo fare qualcosa anche noi, insomma, tonifichiamo il muscolo e rassodiamo le idee, questo sì, è lo slogan. Guarda, effettivamente c'è il costo colesterolo a 2,70, un po' di ginnastica mi farebbe bene. Sì, perché ormai nelle migliori aziende si investe sul wellness, no? Bisogna prendersi cura della salute dei subordinati, che fa bene a Luca, e tra l'altro se i subordinati sono più in forma non si ammalano e vengono di più a lavorare. C'avevo giusto un progetto che avevo tirato su nel tempo libero per creare palestra, piscina, centri massaggi, tapirulante. Ma grande, ma tutto grande! Interno ti per scopro noi. Proattivo, cioè ti dai da fare anche nel tempo libero. Allora, come mai sei così attento a queste nuove tendenze? Beh, avevo accorto anch'io sta nuova esigenza. Ecco, avevo già incaricato Paco di fare un progettino e butta giù questa mia idea. E diciamo, allora, dai, fammi vedere questo progetto e facciamo partire subito il grande motto dell'anno: Zot Wellness, più sei in forma, più fatture. Allora Paco, hai portato questo progetto, eh? Spiega al dottore l'idea del centro wellness. Allora, direttore, mica che avevo proposto al dottor Centrifuga. Sì, le ho già illustrato tutto io della mia idea, eh? Vai al punto. Bisognerebbe demolire gli uffici dal 7 al 27 per creare la sala attrezzi, rinunciare a 14 posti macchina, sì, per montare il pallone della piscina coperta, assumere 3 estetisti, 4 massaggiatori per il centro massaggi, adeguare l'impianto idraulico ed elettrico per la realizzazione di una sauna e acquistare gli attrezzi. Con il tapirulante. Sì, io intanto apprezzo molto un progetto ambizioso. Avete fatto anche 2 conti, immagino, per capire. Certo che abbiamo fatto il piano, la trova tutto sull'ultima pagina. Ecco, allora vado a vedere, perché più che l'ultima pagina mi interessa l'ultima riga. Caro il mio wellness, salute dei subordinati, centri, ma li metti tu i soldi in quest'anno di austerity? Paco, ma che te sei inventato? L'idea l'ha sviluppata Paco e ha esagerato perché è un ragazzo. Figurate se non mi dava la colpa a me. Ecco, facciamo così, adesso ve lo dico io come facciamo il wellness. 1. Spostiamo i parcheggi di 5 km, jogging. 2. Ascensori a giorni alterni, stepping. 3. Immensa solo polo alla piastra, insalatina e caffè amaro. È dieting questo. Bravo. Beh, a questo punto in parcheggio montiamo anche 2 canestri, almeno se fiamo una partita. Ma è neanche un attrezzo, dico un tapirulante, solo per dare un'idea. Bravo, bravo Centri, bella idea. Allora compriamo un tapirulante e un lettino da massaggio. E sapete dove li mettiamo? Immensa? No, nel mio ufficio. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3z2o 1t.